Giovanni, il pane da vivere, capo di cazzo. E qua siamo a puffa, coglione. Fallo col culo, ti guadagni il pane, capo di cazzo. E perché non hai coglioni di farmelo in faccia? No, cazzo, ti pacco la faccia, ti pacco, capo di cazzo. Tutto a posto, tanto? Tutto a posto, tutto a posto. Oh, yeah. Mamma mia, mi gioca bene a Buscenti, no? Che cazzo? Bene va questa radio? Sì, io lo sento, leggermente appena... Però se sono io, leggermente un po' tipo nasina, ma appena appena, Questa è un'altra, No, nasina, un po' sassolo, ecco, no, nasina sassolo. Sì, già lo so, già. Come segnale ultima, radio ultima, c'è sassolo qui a Ottava. Comunque va bene, Poi mi sono sistemato un po' la stazione che bariagato. Era un casino, adesso va bene. Piano piano, sto fai un po' di magari stasera eri più libero, stamattina stavi lavorando, un po' stasera un po' domattina si è a posto. Piano piano tu. Ho fatto dei cambiamenti, ho fatto dei cambiamenti. Ah, già andava bene, dai. Parami la foto, sono curioso. Poi ti mando la foto mia, va. E ancora devo sistemare qualcosa, devo sistemare. E io ho un po' sistemato un po' tutto, più o meno, dai. Sto quasi cassatina, soli a mezzo di farle. Perché dopo le roppe sono tutto a posto. Tutto ok, tanto tempo già ne ho. Io credo che ne hai il tempo. Io domani gli do l'ultima sistematina perché adesso ho lasciato un po' a cazzo, però. Vabbè, piano piano. Ebbene, ultimo come te l'ho fatto. Ma non stiamo lavorando tanto, è la verità. No. Vabbè, gira la zona sua, via Milano, più o meno è tutto a. Come siamo? Vengo più a prendere, se dai che consegna, così. Così è. Più o meno la zona via Milano, così. Tutto da consegna oppure da prendere? Molte cose, molto da terra facciamo. Aspetta che mi stanno chiamando un attimino. E anche a me mi ha dato uno sfidolato. Sì, chi è? Vai Marco. Mari, ci sei? Certo, e ci sono. Bene, Vanto. Fa benissimo, non è andato perché c'è quella bernacchia, beh. Raga, stavo campanese, un campanese di casa suia. Mi sono handicappato, Sicuramente, a Fusettini. Lascio stare, se non fa peggio. Sì, cosa vuoi fare? Adesso voglio fare una prova col portatile, mi aspetti un attimino? Già sono qua, là. Attento Marino, mi senti? Certo che ti sento, tu. Ti sento benissimo. Questo è il portatile mio, io sono una gannonata. Benissimo, c'è una bella modulazione, pulita, limpida, ottima, tu. E quanto è di segnale, Mari? Guarda, come lo so dire che c'ho solo il lenti, mi accendi due lenti, se aspetti un attimino, comunque sta con l'altro, dai. Rimani qua e ti chiamo io. Cappa. Non mi modulare, tu. Ehi, ma perché stai uscendo così strano, Mari? Ho usato la zapparecchia, com'è strano? Ti sento bo. Aspetta un attimo. Cappa, comunque il segnale quanto è, va bene? Il segnale è 9 qualcosa. Cappa, dai. Già va bene anche questo, già. Gli ho fatto l'attacco a cinque sigari. È giù passato l'alimentatore. Una gannonata in questa stazione, va. Ma merita veramente di essere una stazione radio. Va bene, una bella modulazione. La tua voce è proprio limpida, ottima, Antu. Cappa, questo qua è il portatile, l'Intech 520 Plux, lo conosci? No, lo conosco, comunque me l'hai fatto vedere una foto altra volta, sì, va bene tu, va benissimo. Cappa, va bene sì. Guarda, ne ho tolto l'SP, com'è la modulazione adesso? Allora, c'è il carattere, leggermente, appena il segnale, la modulazione sarebbe bella, dai, per me va bene. Cappa, vedi? Questa è una cannonata, va veramente bene questo portatile. Ha fatto la presa, cazzo, adesso. Sono contento, la verità sono contento. Va bene, dai, poi tu già lo sai, i segnali da una radio all'altra cambiano, da un apparecchio all'altro, magari qua c'è 9, magari sta con l'altro, ti trovo il segnale. Per esempio, canti io con lo zoria che ti avevo due led accesi, dai. Capito? Magari se da calare ti vado a segnare ancora. Cambia. Comunque, qui Ottava, Santiago 9, Radio Super 5. KK. Mi ha rubato la spinetta. della Spinetta. Com'è? Va bene, tu va benissimo. Io aspetta, abbasso un po' di. Aspetta, forse è arrivato il messaggio. Cappa Mari, dammelo la notte, qualche chiacchieratina me la posso fare anche con questo. Se portassi puoi portare come ti piace, no? La caravetta dove ce l'hai, giù o su? Su, c'è o su. Voglio provare a fare uno spezzone, se non mi dà stazionarie me lo porto anche giù, ma con un alimentatore piccolino. Adesso vediamo cosa cazzo devo fare. Comunque sono riuscito a sistemare un po', dai. Ah, va bene, non sono preoccupato, va benissimo, dai. Dopo mi è arrivato una foto, ma aspetta, non vedo nulla tu, non vedo nulla. Mi giro in delle balle oggi, non ti occupi di bagoggia. Sì che è arrivato, l'ho mandato. Ciao Antonio, buonasera. Oh, ciao Fra, buonasera. Allora, ciao Marino. Ciao Fra, ben sentito, buonasera anche per te. Mi sposto due minuti e mi sta chiamando in forza. Ci sentiamo dopo, tu, Franco anche. Mi prendi Fra. KK Fra, come ti arrivo col portatile? Una bamboletta. La casa 9.5 e Radio 5 è buono. Da che zona Fra? Io sono a casa adesso. Ah, Rumonti sì. C'hai i suoi watt, mi c'ha il portatile. Non è che abbia chissà quanti watt, no? C'è i watt originali della radio. Ti ascolto bene, anche non ci sono problemi. Tranquillo. Alla grande. Ciao, dimmi. Ci vedi come ho fatto la stazione, bella, cavolo. Qualche cosa ancora me la devo mettere a posto, però cazzarola. Va bene adesso. È catacchiera un ciabotto qui, mi sono sistemato tutti i fili. Gli ho fatto la presa accendi sigari per usare questo. Una cannonata. Cosa va via? Apro un'ospera. Dovevo cambiare il 2SNC. Il transistor è partito, c'era, capito? Sullo taglio finale. Allora, Maraga, quanti lo trabanenti, mi ha combinato un casino. Ma alternata c'è sotto anche il controllo? Negativo, non ne sento alternata, no. No, perché io non mi sta dando problemi all'alternata. Va benissimo Fra, non bene no, benissimo. Chi è avanti? Avanti chi è? Uia, me l'ho sistemata bene. Sono contento, un po' carino di casino che ho combinato, ma vabbè, cos'è poi va? Quando si spegne, purtroppo è uscito. Mi dovrebbe la buttare, io sono stato su di me, c'è un casino, finito. Basta che sto avvicinando c'è un cazzo del bonnettone, la bagassa che ti ha fatto. KK, ui. Con la santa pazienza, ce l'ho fatta. Lo buco. Cazzo, mi è arrivato con una cosa. Con la presa, mi l'ha già fatto io a mano. Ha fatto bene a vero per me. Ho seguito tutta la cosa con la bu, non ne avevo presa. Con un coso dello drabano, ta-ta, piano piano, e l'ho fatto bene. Ma te l'hai preso, le pregavi una cosa, dai cinesi c'è, forse una cazzata anche tu e io. Me l'ha già fatto a mano. Vabbè, con la presa è stato più. Lo so, sono bravo facendo queste cose. E domani con la luce, tutto, no? C'è qualche cosa come ho trapanato. Italiano. capito chi è. Ancora prendi e vai, vai, vai. Ma adesso no. Aspetta, l'amico dell'italiano. Anzi, avanti chi chiama Italia. Scappa, c'è qualcuno che sta chiamando, avanti. Italia. Come se mi scuccia? Susanna, risemmi, no? Aspetta l'amico, mi scuccia l'amico. Non so, c'è qualcuno, c'è. Parla spagnolo, amico. Dai. Anzi, io mi devo preparare, dai. Ci sentiamo più tardi o quando è, ok? Va bene, dai, io faccio una chiamata. Ciao, ci sentiamo. Scappa, più alto di segnale, bravo. Va bene. Sì, lo so, ho aumentato appena appena in stazionaria perché cioè, ha fatto un bel debba. Ma non gli fa niente, ok. Ciao, fra. Tranquillo, già, che tu fai? Non è canale 10, c'è qualcuno? Aspetta un attimo, già. Buonasera, il piacere che mi fa. Sì, è l'acqua che sta facendo. Ah, io a te se l'ho già portato. No, io l'ho portato dopo. Adesso male 8, non so, speriamo che non piova, se non si abbia più. Il problema del cane quando piove è un casino. No, per me non più di tanto. Vado nel porticato di sotto. Nel porticato di sotto, anch'io c'ho il porticato più lungo del tuo. Ma a lui le piace andare nell'erba, già vuoi dire. Vabbè, comunque se piove non sarà un problema. E appunto, ci arrangiamo lo stesso qua. Infatti ci arrangiamo lo stesso, sì, gappa. Chi c'era? Bombolino. E ha detto aspettare. Io, aspetta un attimo. Cosa stavo dicendo già? Boh, non mi ne metto più. Cosa? Non mi ne metto più a giudizio. Ah, che Bombolino ha detto che... di aspettare un attimo che stava bene. Aspetta, avevo sbagliato il microfono, cosa hai detto? Che Bombolino ha detto che veniva subito, di aspettare un attimo. Io ho beccato adesso qua, sono... Se si vuole anche mia moglie, io sono qua comunque. E beh, come sta? Io già, sono scarpa, con la scarpa particolare, molto pirica, tagliata, non so, 60 euro questa volta. Fa una buona pazzina. Niente, ieri è stato molto male, deve essere anestesia, gli ha fatto male. Da tutta la notte a vomiti, un casino. Oggi è un po' meglio, comunque è nel divano, con la borsa del ghiaccio, sta prendendo le pastiglie, la terapia, insomma. Già è una cosa un po' noiosa, ma non è roba tanto grave, eh. Io, beh, se riprende, è importante che l'abbia fatto perché non riusciva più a camminare, capite? Quindi, va bene. Ma io sono qua, io sto anche guardando la partita, si è finito il primo tempo, tra un po' risolvevo il volume, sto guardando anche la partita, non è che ne abbia molta voglia di stare in radio, ma visto che sono qua, tutto acceso, ogni tanto faccio due chiacchiere, va? Senta, anche io c'ho un impegno che c'ho gente a cena stasera. Va bene già. Io lo stesso devo cucinare, ormai, vabbè, c'è anche mia figlia, però non so se escono loro, non so, c'è qualcuno su 10. Ho già! Dimmi a tu! Sì, va bene. Allora. Tutto a posto. Preparandomi, piano piano. Luia. Un po' come stazionaria stasera, porta l'acqua che prendi. Io un attimino mi sto preparando, dammi 2 secondi. Certo, lo sto chiudendo, dai, che vado a fare delle cose, che devo fare. Ok, dai. Non ti preoccupare. Ciao Claudio. Ciao, ciao. Sì, tutto scarico, tutto. Questa radio, cazzo, che c'è, non mi piace il barnuto. Devi cercare di migliorare la radio. Quel cazzo di microfono, ecco. Vedi che un po', se tengo fermo già non succede. Io ho capito, però visto che c'è un buon segnale, cerco di migliorare anche la radio, perché la radio no. Con queste scariche, già io te la buccio. Ciao, già, dai, buona serata anche a te, e anche io non sono molto, sono qua, sto guardando la moto, faccio il partito, ma tra un po' lo andrò anche io a preparare la cera, vai. Bella partita, mi fa che dai. Ciao Claudio. Ciao Antonio. Ciao Giulio, che ci vuoi fare? Purtroppo hanno scelto un allenatore molto molto scarso per conto mio, quindi la Juve si prova le sue responsabilità. Tanto per farlo non dice né il campionato, ma rischia molto molto molto anche per la Champions per il prossimo anno, a metà di giro, è già quarta, deve uscire da lì, deve uscire immediatamente da lì. Perché se gli altri vanno avanti e rimane sotto, sono cacchi suoi. Mi guardo guardandoci. Infatti adesso ho abbassato il volume, adesso lo rialzo. Vediamo un po' cosa succede. Se riesce non manca a pareggiarla. Questa, guarda, gli ultimi 4-5 minuti non l'ho nemmeno guardata, ma mi basia è schifo, mi basia. E non è solo l'allenatore, ma sono i giocatori che lo servono. Non servono i giocatori, per carità. Perché non è possibile, dai, che giocatori di quel calibro che non debbano giocare, indipendentemente dall'allenatore. Soprattutto quel Dybala è un mutuo, veramente un morto, per carità, capite. Non è possibile, ma comunque. Vabbè, ha vinto per tanti anni in seguito, non è che si può vincere sempre, però non si può essere così, dai. Possibile che tutte le volte che c'è un calcio d'angolo rischiano un gol. E almeno su 10 calcio d'angolo mi sembra che ne hanno preso già 5 o 6 di gol. Ma non è possibile che una squadra della Juve come la Juve possa continuare così. No, no, no, no. Non so, però. Il Vicente Morata, che non piaceva, a me piace molto più Dybala. Ha molto più feeling di Ronaldo, ha visto sta segnando, lo fa segnare. Dybala oramai c'ha la testa dall'altra parte, Giulio, quindi non c'è niente da fare. Adesso guardiamo la partita, poi chiudo, perché devo andare a cenare, che c'è mia moglie alla tappa, quindi devo andare a preparare la cena. Ok, va. Purtroppo così, no, Dybala già dall'anno scorso, io non so come hanno fatto a premiarlo come miglior giocatore l'anno scorso nel campionato, ma io non l'ho visto così bravo l'anno scorso, cioè l'ultimo campionato. Quest'anno è proprio morto, era già morto per me già dallo scorso campionato, adesso è proprio morto del tutto, adesso è defunto, buttinoso. No, non va bene, no, non va bene. Ma non sono Morata, ci sono anche altri, poi questi passaggi che fanno sempre in orizzontale, senza fare mai un'imbucata in avanti, non riescono a giocare mai in verticale, ma quando mai una Juve deve giocare in quel modo? Per non parlare poi della difesa, siamo assenti sia in centrocampo che in difesa. Vabbè, Valencia, è andata così quest'anno. Lo so, quest'anno non vincerà niente, manco la coppa del gelato, di gelato si meritano. E la coppa del nonno vinci, dice già la Bovizi, non c'è problema. No, non vince niente, nulla, manco nemmeno la coppa del gelato, guarda, si merita, per carità, no. No, quest'anno è proprio terra a terra, anche contro la Dinamo, guarda che ha vinto sì 3-0, però ha fatto una partita pessima, ma pessima veramente, non, altezza, non ad altezza della Juve. No, non ci lasciamo ingannare dal fatto che ha fatto 3 gol alla Dinamo, mica era la squadra di Murti anche quella, per cui già l'abbiamo visto, il solo fatto che hanno fatto appena un punto in tutte quelle, in quelle qualificazioni alla Dinamo la dice lunga. Poi a Barcellona, su salita, Bigliemo, si incasera un vecchiemino. Certo, si incasera, è già servito a Barcellona, cosa ha fatto? Già ha vinto in casa a Torino, quindi si vuole a Barcellona, ma vediamo un po', non lo so. Non lo so, non lo so. Va bene Giulio, vai, rimango in Corix che vado a preparare, che devo preparare la, la cena, se no non mangiamo, se non ti devo portare anche il cane, devo fare un sacco di cose, non una giurana veramente. Sono capito, io non ho dormito niente, con mia moglie che non riusciva a dormire, sforza qui, sforza là, capito? Quindi sono un po' stanco, un po' giù. Lo so, ti capisco qua, ti capisco. Purtroppo quando si fa quel tipo di intervento è un intervento molto, molto noioso, oltre che doloroso anche, tra l'altro, però è solo questione del tempo, dopo magari risolve il problema tranquillamente. E in parte ce l'ho anch'io, quel problema dell'osso lì, però io l'ho risolto prendendo un paio di scarpe più, con un numero più grande, ma uno è avere, avere un uomo che puoi giostrare sui numeri delle scarpe, l'altro la donna, non può certamente la donna prendersi un numero di scarpe più grande, non sarebbe bene, dai. Vabbè, comunque, ogni giorno ce n'è una qua. Andiamo avanti, dai, siamo nati anche per soffrire, oltretutto. Tanti auguri per tua moglie, allora, dai, che si riprenda molto, ma molto presto, veramente. E poi, evidentemente, era quello, anche quello, un piccolo destino, anche se è un'operazione fattibilissima, senza nessun problema, però molto, ma molto fastidiosa, già lo so che è così. Comunque, dai, ti lascio, vai pure ai fornelli e così ti disimpegni anche tu. Ciao, qua, alle prossime. Ciao, Giulio, se ci sento, preparo quello che devo fare, poi magari mi risiedo qua in, in radio, fammi due chiacchiere. Grazie per l'augurio a mia moglie, dai, ci aggiorniamo dopo, ok? Quanto manco partito, dai, me ne vado in cucina e faccio quello che devo fare, poi ritorno, già sono qua intanto, ok? A dopo. Ok, allora, a dopo, dai. Fai gli auguri a tua moglie, che se ne prende presto. Grazie, grazie, a dopo. Ciao Claudio, ciao Giulio. Ciao Gianfranco, ci sentiamo dopo, dai, ti lascio con Giulio, vado a preparare due cosette. Ciao, ciao. E Giulio, tutto bene? Sei solo? Sì, sono solo, ciao Gianfranco. Sono solo, stavo guardando la partita, è finito il primo tempo, per carità. Non mi è piaciuta proprio per niente oggi la Juve. Non oggi, in tutto questo campionato non mi è piaciuto per niente, in modo particolare oggi, sta facendo pena nel modo come stanno giocando, però non sempre si può vincere, anche quello è vero, vabbè comunque, peggio per loro, dai gioca. Lo sport è così, io già non ne capisco niente, quando posso, in questo periodo non posso, mi piace farlo, che è tutta un'altra cosa. Ma tra ieri e oggi, guarda, mi è sceso il cielo con una mania micidiale. Ieri notte ha fatto pochi minuti di pioggia, ma cattiva, quella cattiva. Sì, è piovuto molto, sì, in effetti è vero. Ma anche stamattina, abbastanza presto, intorno alle 6-7 saranno state, c'era un temporale qua che non finiva mai, lampi, tuoni, proprio alla grande, e più già a più non posso, e vabbè, purtroppo anche quello è il suo momento, Gianfra, cosa ci vuoi fare? Andiamo avanti lo stesso, vabbè dai, comunque. Interessante che finisca il Cupid, perché questo è veramente un problema, guarda, altro che pioggia è quella, uia! Beh, anche se continua la pioggia, anche quello è un problema. Hai visto, l'ha fatta a Bitti. Quindi, i problemi sono tanti, mi sa, caro Giulio. Non è solo il Covid, oioi, chissà cosa ci aspetta lungo questa salita o discesa, a seconda dei punti di vista. Lo so, anche quelle, quello che è successo a Bitti è stata anche quella, no, una bella tragedia, indubbiamente, però bisogna anche considerare certe situazioni, soprattutto da parte degli amministratori comunali, perché per quanto ne so io, Bitti aveva, aveva un finanziamento da 7 anni a questa parte, e aveva dato un finanziamento per mettere riparo a quello che è successo, e lei non l'hanno fatto, invece avevano tombato non so che cosa, ed ecco che è saltato tutto. Vabbè, dai, comunque, anche nemmeno quello si può dire, tiriamo avanti sempre. Vai, Giafra. Ma ci sono gli indiani. Buonasera, buonasera. Tu, cos'è? Ti sei trasformato in indiano? Babù, il grillo degli indiani. Ogni tanto mi trasformo. E cosa stai usando? Che sei pieno di scariche? Cambia il microfono, tu, che stai andando male, ti sento male di radio. Avanti, gioca. Il microfono mangia gli da due balle. Aspetta un attimo. Niente, parolaccia, tu, non è il caso. Uno si può esprimere anche senza parolacce. Non è assolutamente il caso, guarda, è frequenza. Vabbè, scusa di non lavora. Ma stasera non trovo le parole, Gianfra. Diglielo tu, vai. capita, forse volevi dire non è opportuno, dato che all'ascolto ci possono essere bambini, e al posto di avvicinarli alla radio li si allontana. E infatti è quello che non mi veniva l'aggettivo, infatti ho già fatto, e vabbè, comunque. Sì, ma in effetti è così, no? Vai, buon buccio. Io, in 48 anni e mezzo e oltre di frequenza, quasi 49, non mi sono mai permesso di dire una parolaccia, non a baracchino, ma nemmeno in famiglia soprattutto, ci mancherebbe altro. Non lo sa bene, io la vedo in questo modo. Con questo non voglio fare osservazione a nessuno, ci mancherebbe. Ognuno è padrone di esprimersi come crede, non c'è problema. Anto, riprendi. Vabbè, in chiesa non ci sono passato ancora. Anche se non ci sei passato, vabbè, lo stesso, Anto. Non c'è bisogno, dai. Tu lo sai benissimo che in una casa ci possono essere bambini, ci possono essere anche donne, eccetera. Tu mi dirai, ma le donne oggi ne dicono più degli uomini. D'accordo con te, però non sta bene, dai. Non sta bene. Si può parlare ugualmente, tranquillamente, divertirsi anche senza esprimerci in quel modo. Non c'è bisogno di sconfinare in certe volgarità, tutto lì. Vabbè, ma non ti sto facendo nessun improprio, mi sia ben chiaro, Antu. È solo una mia impressione questa, è come la penso io, capito, Antu? Problema mio, io parlo come mangio. Il problema mio è quando sono un po' rotto di scatole o certe espressioni. Vabbè, fai come credi, Antu, fai come credi. Avanti, Giafra. Capita anche quello. Vale. Niente, mi sono dimenticato quello che volevo dire. Capita anche quello, che ti dimentichi le cose. Sì, beh, certo, quelle volte uno parte lanciato, magari, che vuole affrontare un discorso, e poi al momento giusto, al momento opportuno, ti manca l'aggettivo per potersi esprimere. Ma succede un po' a tutti, anche ai migliori professori ho già fatto, per cui non è un problema, dai, non è un problema, sono i difetti della vita umana. Tante volte succede, e capita di sorprendere anche, poter avere una mancanza di eccetera. Avanti a tu. Cappa, dai, questa va bene la radio? Va bene? Sì, già va bene questa, tu, questa è pulita almeno, non ci sono scariche, no, non c'è problema, va bene così, lasciala pure così. Avanti, Gianfra. Sto portando a giussare, se qualcuno me lo fa, ti chiedo grazie. Non so cosa dirti, non so cosa dirti, chieda a qualcuno, qualcuno ti aiuterà o altro. Sì, comunque lasciala stare, quella già va bene così, con quel microfono già va bene, almeno è pulita la radio. Avanti, Gioca. E poi adesso a riparare le radio con i componenti che ci hanno dentro, solo in continente, a metterci mano, qua non ce n'è più, sono talmente piccoli, quelli che c'erano sono troppo vecchi, non ci vedono, quindi è così, purtroppo. Stavo rispondo a noi, io vedo un po' cosa sia successo, ma sicuramente il PTT che non sta andando per il verso giusto, va bene, cavolo, 10 anni ci ho fatto con quella radio, mi avrà c'era pure il track, adesso qualche cosa ce l'hanno dopo 10 anni, c'è sempre usato quel microfono lì sempre, va bene, comunque nel caso va bene anche questo, io non ne posso fare. Complimenti veramente piccoli, ma che nemmeno con la lettera di ingrandimento, se non hai 20 anni riesci a venirli, se ne hai più di 50 sei un po' negato, vabbè, comunque va bene lo stesso. Avanti a tu. Stavo dicendo, magari ti ho sovramodulato, non me ne sono accorto, che anche questo va bene mia quell'altra, quindi nel caso ci uso questo qua, ma vabbè, adesso ho attaccato questo e va bene, però nel caso lo voglio utilizzare, posso utilizzarlo anche là, perché sono uguali, sono precisi identici, però voglio adesso se qualcuno me lo fa glielo porto e me lo sistema. Ok, ho capito tu. Vabbè, allora sai che questo va bene, utilizza questo, è inutile continuare a insistere con l'altro, se non va non va, prima sistematelo poi magari lo puoi utilizzare, ma questo va bene, questo già va bene, non c'è problema. Sì, no, perché diciamo che è fastidioso sentire un microfono tutto messo male, hai capito? Non è che nessuno vuole essere scortese, per carità, ci mancherebbe altro, figurati, anche perché si sa, il microfono si può guastare anche da un momento all'altro. Però se sai che non funziona non lo usare, basta, prima sistemalo e dopodiché allora lo potrai utilizzare, io lo vedo in questo modo, io difficilmente esco male, perché prima di entrare a modulare cosa faccio? Mi metto le cuffie, accendo l'altra parte e ascolto. Difficilmente mi dimentico di fare questa operazione, una volta che ho fatto questa operazione so che posso parlare tranquillamente alla grande senza creare problemi di ascolto a nessuno, io faccio sempre così, ma da sempre. Sì, mi è capitato qualche volta di non fare il controllo prima di iniziare e magari sono uscito anche male, perché può succedere, sai, quando spolveri la radio o col pennello eccetera, soprattutto sposti i potenziometri e le regolazioni saltano, non sono più quelle, ma io generalmente faccio questa operazione qua, prima di incominciare a parlare, a modulare, accendo l'altra radio, indosso le cuffie, mi sposto di canale, faccio 3-4 chiamate di prova per me stesso e so che sto andando bene o sto andando male, e se sto andando male faccio l'aggiustamento e ciccia, tutto così. Va bene, avanti Gianfra. Sì. Scusate un attimo, che sto ricevendo una trasmissione. Ai, qualcosa è successo. Un rumore a vivi, ma la radio comunque era sempre molto chiara. Avanti a tu. È successa qualcosa, è successa. Sì, beh certo, no, ma l'ha detto, ho sentito che Gianfranco ha detto che stava ricevendo un'altra trasmissione con la portante premuta, evidentemente è chiaro che entrava anche, ma stava aggiustando, ce l'ha preannunciato, per cui lui è esperto, non è certamente un novellino della frequenza, sa come si deve comportare. Va bene, vediamo se riprende o se ha aggiustato il tutto. Vai Andrea Gioca. È successo qualcosa all'amplificatore? No, No, no, non è successo niente. Era solo l'altro apparato che stava trasmettendo, però non interpretava il codice, quindi quando non interpreta il codice ti dà rumore, ecco, tutto lì. E adesso invece insomma è una cosa un po' complicata, capito? Non è una modulazione analogica. Come sempre faccio due lavori in uno e quindi era lì, perché sono cose molto lunghe tra l'altro, che fanno pure prima il mal di testa, ti dirò, finché non si ottiene il risultato che uno cerca. Ma insomma, la passione che è quella, tutto lì, riprendi anche un... C'è un rumore strano, a me è successa qualcosa, perché l'amplificatore non mi sta andando bene. Dai, vi devo salutare che vi devo lasciare, dai, ci sentiamo. Io non sento niente, per me è normale, niente di particolare. No, non è roba tua, no, è roba mia che è successa qualcosa, domani lo controllo. O era lì che si è bloccato, ma era di Dio, che di vecchia. Ci sentiamo, io devo fare roba. Ok, ciao. Ok, ciao, se vuoi consiglio, se è roba vecchia di relè eccetera, quasi sempre con un antiossidante di quelli professionali, risolvi, perché i contatti dei relè si sa, dopo un po' si ossidano. Riprendi Giulio. Ok, ciao a tu. Ci sentiamo alle prossime, sì, probabilmente è così, se è questione di relè con l'amplificatore, meglio una struttatina e vedrai che magari se ne prende. Sì, io avevo capito dal primissimo momento quando tu avevi detto che c'era problema, forse poc'anzi Gianfranco in un primo istante aveva capito che ti riferivi a lui, invece no, ti riferivi a te stesso, avevo capito benissimo. Altro sì, e vabbè, pazienza, controlla, soprattutto le stazionarie, perché tieni presente a tu, che le stazionarie, se hai anche 1,2, 1,3, e poi quando metti l'amplificatore aumenta, noi, perciò devo stare attento, perché puoi fare danno, comunque, vedi un po', bravo, dai, avanti Gianfranco. Sì, Giulio. La stufa, perché dopo un po' tende a fare mal di testa. Io ci sono andata mattina combattendo con questa cosa, poi vai a vedere i risultati e non combaciano, quindi l'errore c'è sempre, l'errore purtroppo è lì in agguato su queste cose. Ed è un macello, veramente, è una scocciatura di quelle veramente colossali, perché di lavoro ce n'è tanto da fare, e quando incontri queste cose proprio si blocca. E vabbè, cose che capitano. Vabbè, sicuramente sì, questo è ovvio, e vabbè, comunque, poi non ci vuole niente a distrarsi un attimino, non far caso al problema, e allora continuando si può fare danno, invece, comunque, già, se sei abbastanza esperto, Gianfranco, ti accorgi di tutto subito, all'istante, perciò non c'è problema. Comunque vedo che non c'è nessuno stasera in frequenza, strano. Non sento nemmeno Gianni, non sento nemmeno Marco. Marco, ci sei in ascolto? Marco sta soffiando il fuoco per il pranzo, perché lui a quest'ora è sempre indaffarato in fatti culinari. Lui è il culinatore di queste ore. Vabbè, dai, riprendi. Anche quello ci vuole, poi lui che mangia orari strani, quindi è anche in cucina in momenti un po' particolari. Sì. Ui. Ma cosa vuoi dire? Sto controllando, ma che conti, come diceva quello, i conti non tornano. E infatti i conti non tornano, e tante volte anche con la calcolatrice scientifica diventa difficoltoso, non per la calcolatrice stessa, ma per la mente dell'uomo, che magari che non la sa usare in maniera perfetta. E vabbè, succedono queste cose. Non c'è problema, non tutto nella vita va sempre liscio. Anzi, diciamo che molto spesso vanno anche storte le cose. Vabbè, Marco, se c'è l'ascolto, ti stiamo aspettando. Mi prendi Gianfra. Ok. Giù devo ancora un'antenna che c'hai, è sempre quella là, autocostruita, che avevi detto che era bassa. L'avevo sostituita con la Game Master originale, adesso è originale, però non ho trovato differenza da quella che avevo autocostruito a questa, perché i segnali e i rapporti sono sempre questi, sia in trasmissione che in ricezione, per cui quella autocostruita era andata proprio bene, a meraviglia. A dire la verità ne avevo fatto anche un'altra, però ancora non ho avuto modo di metterla su per provarla. Probabilmente anche quella è uguale, perché ho fatto stesse misure, stesse caratteristiche, per cui dovrebbe andare bene. Anzi, per essere sincero, l'avevo provata così appoggiato, in linea un pochino tra la verticale e l'orizzontale, perché non avevo modo di tenerla in piedi, e allora l'ho appoggiata ad avanzare, l'ho appoggiata nella terrazzo, ci ho provato, ho controllato con l'osmetro eccetera, e tutto era a posto. Però non ho avuto modo di metterla sul palo per verificare, anche perché per metterla sul palo dovrei studiare quella che c'è adesso, cioè la originale, la Game Master originale. Ma sono sicurissimo che fa la perfezione come questa, quella appena autocostruita. Perciò va bene così. Avanti Gioca. Sì, Giulio. Come vedere quanto 18,5 gradi. E c'ho questo mal di gola, cioè non è neanche un mal di gola, è una specie di mal di gola, un intasamento, dai, caldo freddo, poi qua in campagna con le temperature che circolano, e dice che deve anche peggiorare, anche domenica c'è la bruccia, poi lunedì, vediamo cosa succede. Lo so, questa è la stagione appunto che ti porta anche queste difficoltà, purtroppo è così. E anch'io, no, ma io uso spesso quelle mentine frisci, si chiamano, una di quelle subito ti schiarisce l'uvola, no, meno a me non fa quell'effetto. No, perché io la mattina ad esempio no, mi alzo tranquillo, senza aver niente, faccio colazione e poi magari in tutta la mattinata bevo anche poco, la verità, devo essere sincero, bevo anche poco, nonostante che il dottore mi dica di bere sempre abbastanza, mentre invece io non riesco a bere, bevo sì, ma non più di tanto. E a quando alla sera, cioè a quando all'ora del pomeriggio, cioè verso l'una, l'ora e mezzo, ho sempre questo tipo di abbassamento di voce che mi... Allora cosa faccio? Probabilmente sono disidratato, o probabilmente perché ancora non ho pranzato, pranzo, bevo e tutto si rimette in ordine di nuovo. La gola, non so per quale motivo mi succede così, ma questo da sempre, da anni e anni e anni, da moltissimi anni ho già fatto. Sì, anche a me la stessa cosa. Ma possono essere le conseguenze di qualche vecchia sinusite che tra l'altro poi non se ne va, e quindi rimani mezzo intasato. Così per sta andando. Poi io non ho preso l'attentone. Vabbè. Così è Giulio. Adesso quasi mi prendo, mi faccio una bella cosa. Anche quello è un buon medicinale che va bene, certo. Va bene, sì, e vabbè, già fai, cosa ci vuoi fare? Ma io, la verità, io forse ho sempre pensato che il lavoro che facevo io, con tutta la polvere che ho respirato e anche odori di vernici e cose varie, sai, dopo tantissimi anni è chiaro che a un certo momento anche la voce ne risente. Beh, comunque, mentre veramente sono raffreddato, ma veramente molto molto di rado io sono raffreddato. In un anno posso avere il raffreddore al massimo una volta, due volte, ma esagerandomi, a differenza di tante persone. Però starnutire, quando sì, mi viene sempre, tutti i giorni starnutisco. Due, tre colpi di starnuto li faccio sempre. No, comunque, li ho anche considerati sintomi di vecchiaia, tutte queste cose, o già fa. D'altronde, alla mia età cosa devo pensare? Sintomi della vecchiaia. Però adesso sto bene, dai, in quei giorni scorsi avevo, tu presente c'era il fuoco di Sant'Antonio, avevo nel giro cintola, tutto attorno, nella vita, avevo questa specie di bruciore, una delicatezza sulla pelle, una cosa micidiale, come quando uno è bruciato dal sole, dal mare, no, eccetera. E mi toccavo e mi dava un fastidio tremendo, infatti ero giù, in quei giorni ero giù per quel motivo lì, già. Adesso già diciamo che mi è completamente passato quasi tutto, ma un leggerissimo ancora sento fastidio, ma molto molto leggero, ma a differenza di prima che era talmente fastidioso che infatti anche la notte non mi lasciava riposare bene, perché come mi giravo, come mi fregava e bruciava, in poche parole. Non so come sperarti, lo voglio fare. Sì, capita, anche a me ogni tanto, anche poco fa, mi è venuta una fitta fortissima, una coltellata praticamente su un fianco, in basso. Vada a pesca, se dobbiamo stare sempre a guardare tutti i dolori che ci vengono, guai, anche quelli sono parte del gioco. Purtroppo sì, per non considerare poi che esattamente 20, 22, 23, 25 giorni fa ho messo male un piede e mi sono fatto male, ma male abbastanza, suppongo addirittura che c'era anche qualche micro frattura, perché mi sono fatto il piede, intanto un bello gonfio, proprio il piede, non la caviglia, il piede, proprio il piede, scendendo da un marciapiede, ero con la mascherina, non ho visto un dosso che c'era lì. Ho messo il piede su questo dosso, cioè il dosso è fatto a montagnetta, no? E dunque ho messo male la caviglia, ho fatto una caduta proprio che non te ne dico niente, ma bella, bella, bella, proprio di quelli a mille una notte. E mi sono fatto male molto al piede, infatti ancora oggi sto zoppicando poco poco, perché anche se ormai è già in fase di guarigione quasi del tutto, però ancora un leggero fastidio dalla mattina alla sera lo sento sempre. Io penso di aver avuto anche una micro frattura, ma non ci sono andato all'ospedale, niente. Sono arrivato a casa, me lo sono fasciato così, da solo, ma adesso diciamo che è quasi completamente guarito. Però ancora un piccolissimo, ma leggero indolenzimento ce l'ho, Sono cose che capitano. Purtroppo, comunque non era una frattura, se fosse una frattura sarebbe ancora urla. Non... La frattura fa sempre male, se non si mette mano non si ricompone, e se si ricompone male spesso, quindi va trattata comunque. Sono slogature, così, muscolari, io accedo, condizionatore, cosa fa? Combinato, aria fredda anche questo. Un attimo che controllo il condizionatore, che stamane ci sono state un paio di scariche di corrente, non vorrei che adesso mi uscisse l'aria fredda, così sono ma dove sei stato? Dai, già fra, sono qua. Appena che hai terminato, richiama, già sono qua in ascolto. Ma ho già fatto. Questa corrente sta diventando micidiale, con questo cattivo tempo. Ogni tanto ti arriva la carichetta e c'è paura, perché a volte gli apparati, vabbè, possono anche andare a batteria, ma televisori, condizionatori, frigoriferi che sono sempre accesi, di lì è un macello, ne hai voglia di mettere i filtri e così, ma se poi ti arrivano gli sbalzi a 110, a 120 volt, è un bel casotto. Beh certo, come tu la corrente non scherza, la corrente non scherza, può dare dei fastidi veramente seri, altro che... Sì, no, e anch'io oggi, cioè oggi, da ieri, sto diventando la stufa pellet, con un pellet comprato qui all'AMD degli punti, ma fa una fiamma altissima, nonostante che la temperatura regolata della stufa è sempre quella, no? Tu pensa che io lo stavo usando a 3, adesso l'ho dovuto abbassare a 1, perché era talmente alta la fiamma. E noi, io ho regolato la stufa pellet che ho io, quella idro, no? Mi riscalda i radiatori, eccetera. E addirittura la temperatura dell'acqua era intorno ai 67-68. Pensa che è stata regolata al massimo a 70, regolata di proposito, ma arrivare a quella temperatura, cioè di solito arrivava verso 62-63 con altro tipo di pelle, che invece questa addirittura è arrivata anche a 67 e anche a 68 in certi momenti. Infatti ho dovuto abbassare la regolazione, anziché metterla a 3, l'ho messa a 1 addirittura, nonostante tutto che a 1 la fiamma è sempre abbastanza alta, proprio alta, alta, alta. Diciamo, ho pensato che questo pellet è molto, molto infiammabile, chissà che tipo di prodotto ci hanno messo sopra per avere una fiamma così bella, alta, che ti illumina, se spengo la luce ti illumina tutto il salone. Vabbè, comunque, tanto di guadagnato chiaramente, no? Così consuma anche meno pellet e allo stesso tempo il calore è più che sufficiente. Avanti Giofra. Sì, io ce l'avevo, ma poi ho visto che non era conveniente. Già solo per chiamare a fare un'assistenza, sembrava che stai cercando di far venire a casa tua il Papa. Anzi, forse quello sarebbe venuto anche. Poi, cifre da capogiro, quasi fosse una visita medica, no, no, no. L'ho presa, anche se costava un patrimonio, perché era di quelle grosse, fatta fuori, poi inquinava anche. È molto inquinante, questi pacchi di pelle, aprire, mettere, pulire ogni giorno, polveri sottili a nastro, lasciamo perdere. Poi su molte cose c'erano anche molto pelle per aggregarli, ci mettono anche delle sostanze particolari, quindi di mano in peggio, guarda, meglio niente. E no, io la verità mi trovo abbastanza bene col pellet, tutti i giorni ci vuole poco, apro lo sfogliolino, prendo l'aspiracenere, l'aspiro e ci vogliono 3 minuti, devo perderci, non di più, e subito faccio l'accensione, no? Non è un problema, premesso che io l'accendo sempre intorno all'una, perché la mattina, no? È inutile accenderla la mattina, a meno che non faccia proprio freddo